Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Il razzismo è il veleno della società, così Angela Merkel sull'attentato xenofobo di Hanau, 9 vittime tra i frequentatori dei bar turchi, morti anche l'attentatore e la madre. La maggioranza supera il voto di fiducia sul decreto intercettazioni. Renzi, assente al momento delle votazioni, annuncia presto un chiarimento tra me e Conte. Coronavirus, continua la diminuzione di contagi in Cina, prime vittime invece in Corea del Sud e Iran. In Italia si sono persi 70.000 negozi negli ultimi 10 anni, secondo Confcommercio si salvano solo bar, alberghi e ristoranti. Calcio, stasera per i 16esimi di Europa League si giocano Ludogorets, Inter e Roma-Ghent. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati al punto delle notizie a metà giornata su Radio 24, effetto giorno alle 13:01. Cominciamo dalla strage di Hanau in Germania, che ha causato la morte di 11 persone, tra cui l'attentatore e la madre dell'attentatore, oltre a 9 persone che si trovavano davanti a 2 locali frequentati da turchi. L'autore è un 43enne tedesco, sostenitore di idee xenofobe di estrema destra, tanto che la strage è stata classificata dalla Procura federale tedesca come un presunto atto di terrorismo. La cancelliera Angela Merkel poco fa ha detto: il razzismo è il veleno della società. Non era noto alle forze dell'ordine per il suo estremismo di destra il 43enne che ieri sera, sparando sui clienti di 2 bar ad Hanau, ha ucciso 9 persone e ne ha ferito gravemente altre 5. Der erste Tatort liegt im Zentrum. Le vittime sono in maggioranza di origine straniera ed erano proprio migranti e musulmani gli obiettivi del killer, che ha lasciato una lettera e una videoconfessione nell'appartamento in cui le forze dell'ordine lo hanno trovato morto, accanto al corpo della madre, uccisa a quanto pare da lui stesso. Hier in der Helmholtzstraße. La Procura federale tedesca indaga per presunto atto di terrorismo di matrice xenofoba. Da tempo denunciamo i pericoli, bisogna agire contro l'estremismo di destra, chiede il presidente della comunità curda in Germania. Profondo dolore e cordoglio esprime intanto il presidente tedesco Steinmeier. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore. E nella seconda parte di Effetto Giorno torneremo in Germania per le ultime notizie, le reazioni, anche per tentare di capire quanto è esteso il fenomeno dell'estremismo xenofobo in Germania, appunto con la corrispondente del Sole 24 Ore. La politica ora, siamo naturalmente venuti all'Italia. Oggi c'era l'atteso voto di fiducia sul decreto intercettazioni, mentre la maggioranza incassa le dichiarazioni di ieri di Renzi, che alla fine non ha annunciato l'addio, non ha annunciato il temuto strappo, ma le polemiche vanno avanti. Betta Fiorito, buongiorno. Sì Alessio, proprio così, un chiarimento chiede il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Senato, riferendosi all'incontro chiesto dal premier Giuseppe Conte, che si dovrebbe allora tenere la prossima settimana. Ma sentiamo quanto ha detto Renzi. In queste settimane noi siamo stati gli argini del buonsenso, i guardiani del buonsenso, i garanti del buonsenso. Lo continueremo a fare nei prossimi mesi, sia che stiamo in maggioranza, sia che stiamo all'opposizione. La settimana prossima conto che possiamo finalmente mettere la parola fine a questo teatrino. Ma dal Movimento 5 Stelle il reggente Vito Crimi risponde in modo aspro ad Italia Viva. Sentiamo. La maggioranza, le proposte si fanno nei tavoli e non si fanno nei salotti televisivi. Io credo che oggi il Paese abbia bisogno solo di proposte serie per sviluppo e crescita e non i continui litigi e le continue dichiarazioni e le provocazioni da parte di qualcuno. Sullo sfondo, come dicevi tu Alessio, anche il decreto intercettazioni che incassa la fiducia al Senato, 156 sì, 118 no, ma anche qui Renzi precisa: il voto non è una fiducia al ministro della giustizia Alfonso Bonafede e non partecipa proprio al momento del voto. Ufficialmente dai tabulati di Palazzo Madama risulta in congedo, ma ricordiamo che poco prima aveva tenuto una conferenza stampa proprio al Senato, quindi un altro strappo Alessio. Grazie Elisabetta. A proposito di questo strappo all'interno della maggioranza, per ora solo annunciato, ma come avete sentito continuamente ventilato, il commento di Daniele Biacchessi. Fin dal dicembre 2019, più esattamente dal voto in Commissione Giustizia di Renzi, in netta opposizione alla riforma Bonafede, il governo Conte-Bis vive in uno stato precario. Già in quell'occasione avevamo previsto una escalation della pressione di Italia Viva sull'esecutivo e sulla maggioranza che lo sostiene, ma avevamo ricordato che quello sulla giustizia sarebbe stato solo uno dei tanti temi di conflitto, una sorta di pretesto per contare di più, per affermare un maggiore peso politico nella coalizione, unito ad uno smisurato egocentrismo dell'ex premier. La strategia adottata, almeno stando ai sondaggi, non sembra portare grandi risultati a Renzi. La sua uscita dal PD avrebbe dovuto far nascere una formazione politica alternativa intorno al 10%, ma il più benevolo degli analisti assegna a Italia Viva il 4%. Anche le manovre per attirare nuovi deputati sono viste dall'elettorato come manovre che ricordano più la Prima Repubblica che nuovi modelli di azione politica. Al momento pare un po' poco per determinare la fine parlamentare del Conte Bis e l'avvio di una nuova fase politica ed elettorale. E siamo invece alla pagina sul coronavirus. Le ultime notizie: continua la diminuzione dei contagi in Cina ed è questa naturalmente una buona notizia. Facciamo il punto con Rosanna Magnano. Sì, buongiorno. Il coronavirus rallenta in Cina e le guarigioni continuano a superare i nuovi contagi da qualche giorno. Ma c'è una prima vittima, un uomo di 63 anni, in Corea del Sud. E si registrano le prime due vittime anche in Iran, a Qom, città del nord-ovest, messa in parte in quarantena. Altri due decessi, due ottantenni passeggeri, a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera attraccata a Yokohama in Giappone, con 621 casi di contagio a bordo, e salgono così a 3 le vittime sulla nave. Oggi proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri giudicati sani e c'è attesa per i 35 italiani che saranno sottoposti ai controlli del team medico inviato dall'Italia. Chi risulterà negativo potrà sbarcare già oggi per rientrare a casa in serata con un secondo aereo, un Boeing dell'aeronautica militare, partito ieri dall'Italia. Il Ministero della Salute nipponico sta organizzando anche lo sbarco dell'equipaggio. Tra questi c'è il comandante italiano della nave, Gennaro Arma, che secondo la prassi sbarcherà solo quando l'ultimo dei passeggeri avrà abbandonato la nave. È tutto. Grazie a Rosanna. E intanto la Banca Centrale Cinese oggi ha confermato che continuerà a mantenere intatto il proprio sostegno all'economia cinese in questo particolare momento, con prestiti favorevoli e tassi speciali per le aziende coinvolte proprio nel controllo dell'epidemia. Sentiamo. Un monitoraggio continuo dell'impatto sui mercati finanziari e sull'economia reale a livello globale per la diffusione del coronavirus. Le borse asiatiche risentono oggi in maniera diversa degli effetti. In generale, piatte e caute, ma quelle cinesi corrono in chiusura perché, come risposta alla crisi, la Banca Popolare Cinese ha tagliato il tasso di interesse base e ha iniettato enormi quantità di liquidità nei mercati per contribuire a ridurre la pressione sulle banche e sui debitori. Il governo di Pechino, inoltre, ha anche annunciato nuove agevolazioni fiscali e sussidi per sostenere i consumi interni. Anche le banche centrali di Sri Lanka, Malesia, Thailandia e Filippine hanno tagliato i tassi di interesse nelle ultime settimane, attese Corea del Sud e Taiwan. Continua intanto la corsa dell'oro sui timori provocati dal rallentamento dell'economia per effetto del coronavirus, arrivato ai massimi da 7 anni. Ma è la crescita dell'economia cinese e a ricaduta quella mondiale che preoccupa di più. Secondo il centro di ricerca britannico Oxford Economics, nel primo trimestre di quest'anno l'economia cinese crescerà meno del 4% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una stima sull'intero anno del 5-6%, che prima dell'epidemia era invece del 6%, cifra che si prevedeva anche per il primo trimestre. Il tutto dovrebbe impattare sull'economia mondiale, tagliando lo 0,2% alle attese di crescita. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Inizia nel pomeriggio il vertice europeo a Bruxelles per il bilancio, un appuntamento preceduto ieri dalle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha ammesso le difficoltà per l'Italia su questo bilancio. Facciamo il punto con Sergio Nava. Buongiorno, sì, si prepara lunghe ore di negoziato oggi a Bruxelles che sfoceranno forse fin nel weekend nella battaglia sul bilancio settennale europeo 2021-2027. Sul tavolo la proposta del presidente europeo Michel, che propone un budget da 1.095 miliardi, l'1,074% del PIL comunitario, sul quale si daranno battaglia i paesi del nord Europa che chiedono di scendere all'1% e quelli del centro-sud, tra cui l'Italia, che spingono per mantenere un bilancio adeguato con i fondi per agricoltura e coesione, tradizionali voci di spesa del budget. Al di là dell'aridità delle cifre in ballo è lo stesso futuro delle politiche comunitarie e il loro impatto diretto sui cittadini ad essere sul tavolo. Le previsioni indicano una probabile fumata nera per questo vertice, lo stesso Michel per ora azzarda possibili progressi nelle prossime ore, tutto resta però possibile ed è tutto. Grazie Sergio Nava. E adesso con la cronaca torniamo in Italia. Andiamo in Puglia, c'è anche il direttore dell'arsenale militare di Taranto, il contrammiraglio Cristiano Nervi, tra i 12 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti, ancora una volta, in questo caso nella manutenzione delle navi militari proprio a Taranto, tra le accuse turbativa d'asta in concorso con alcuni imprenditori. E siamo ai dati economici, cassa integrazione in netta crescita a gennaio, più 30%, e oggi vertice al Ministero sul fallimento di Air Italy. Ce la metterò tutta per risolvere questa situazione. La ministra dei trasporti, Paola De Micheli, incontra i lavoratori di Air Italy in presidio davanti al Ministero e prova a rassicurare sul futuro della compagnia messa in liquidazione dai soci. In ballo ci sono 1.450 posti di lavoro. Al momento, ha spiegato la ministra ai sindacati, la proprietà di Air Italy non ha intenzione di modificare la procedura di liquidazione, ma questo non significa, ha aggiunto, che il governo non abbia provato a immaginare un'alternativa. Secondo i sindacati, Air Italy deve tornare a volare perché la Sardegna non può rimanere isolata. La procedura di liquidazione va fermata, dice il segretario generale della Wil Trasporti, Claudio Tarlazzi. Vogliamo soluzioni concrete di rilancio per tutto il trasporto aereo, un settore strategico, spiega, al quale vanno trovate regole valide per tutti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E soffre il commercio italiano, 70.000 negozi in meno negli ultimi 10 anni. Meno negozi, più bar e ristoranti. Basta passeggiare per una delle vie commerciali delle nostre città per rendersi conto della trasformazione. La conferma arriva dal rapporto annuale Confcommercio sulla demografia d'impresa nelle città italiane. Il commercio al dettaglio in sede fissa tra il 2008 e il 2019 è sceso del 12,1%, pari a 70.000 negozi. Un calo che nei centri storici supera il 14%, il 15% nel centro-sud. In crescita invece il settore ricettivo e della ristorazione, alberghi, bar e ristoranti segnano più 16,5%, 49.000 attività, tra le quali risulta molto forte lo street food e il takeaway. Serve un piano nazionale per la rigenerazione urbana, sottolinea il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Altro dato in evidenza, crescono imprese e lavoratori stranieri più 27 e 18% rispettivamente, calano invece le imprese italiane meno 2,2, con un lieve rialzo degli occupati più 1,9. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, il calcio per l'Europa League. Questa sera alle 18.55 si giocano Ludo Goretz Inter e poi alle 21 all'Olimpico la Roma ospita i belgi del Ghent. Ne parliamo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno con Carlo Genta, e tra poco anche torneremo in Germania, ma i nuovi controlli del Ministero dei Trasporti sulla rete autostradale in Liguria, e ci sono nuovi guai per autostrade. Vi raccontiamo tra poco quali sono. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci sentiamo anche, se volete, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Queste le notizie principali di oggi. Il razzismo è il veleno della società, così Angela Merkel sull'attentato xenofobo in Germania, 9 vittime nei bar turchi. Tra poco in collegamento la corrispondente in Germania del Sole 24 Ore. La maggioranza supera il voto di fiducia sul decreto intercettazioni. Renzi assente al voto, annuncia presto un chiarimento tra me e Conte. Coronavirus, continua la diminuzione dei contagi in Cina. Confcommercio, persi 70.000 negozi negli ultimi 10 anni. In Italia si salvano solamente bar, alberghi e ristoranti. Genova, nuova tegola per autostrade. Per il MIT è da mettere a posto anche l'elicoidale che collega il ponte in costruzione al casello. Calcio, stasera per i sedicesimi di Europa League si giocano Ludogorets Inter e Roma Ghent. Minuti, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati e buongiorno anche a Isabella Buffacchi, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore. Ciao Isabella. Ciao, buongiorno a tutti. Ben ritrovata. Allora, vogliamo da te le ultime notizie, insomma, relativamente a questo attentato che c'è stato ieri sera. Diciamo, i contorni si sono abbastanza delineati, 9 vittime. Sì. Poi ci sono la madre e l'attentatore stesso che sono stati ritrovati morti, quindi 11 complessivamente il numero delle vittime. Poi insomma anche quelle che sono state le dichiarazioni di oggi della cancelliera Merkel, che ha parlato chiaramente di xenofobia e razzismo per questo attentato che fino a qualche ora fa era definito un presunto atto di terrorismo. Adesso cosa dicono le autorità, Isabella? Ma diciamo che le autorità stanno controllando l'utilizzo di internet e dei social network di questo tedesco di 43 anni che è nato a Nau, questa piccola cittadina industriale vicino a Francoforte. Sì. È nato e cresciuto lì. Ha rilasciato, come si sa, dei video, anche una testimonianza così scritta, però le autorità stanno indagando per sapere se nei suoi contatti attraverso internet aveva in qualche modo preannunciato questo attentato, se qualcuno lo sapeva, se qualcuno lo ha assistito. Quindi su questo in realtà non ci viene detto nulla, proprio perché ci sono delle indagini in corso e perché non si vogliono mettere in allarme eventuali contatti, e quindi per ora ecco c'è questa pista che stanno seguendo. In realtà tra le reazioni, come avete detto, quella di Angela Merkel, che è molto importante perché ha un po' ampliato, cioè non è alla fine un episodio isolato, cioè la Germania purtroppo è come se si stesse abituando. Ecco, mi sembra questo un punto importante, sì. Infatti, di episodi di violenza che abbiamo avuto due, insomma, clamorosi negli ultimi mesi, quello dell'attentato alla sinagoga di Halle a ottobre, ma anche c'è stato un assassinio, cioè un membro del partito della CDU, solo per aver detto che avrebbe aiutato i rifugiati, Walter Lübcke, è stato ucciso in casa. Poi ci sono anche segnalazioni continue di piccoli episodi di violenza, piccoli, grandi, quindi questo veleno di cui ha parlato la Merkel adesso si è manifestato nuovamente. Bisognerà capire quello che stavi dicendo tu, le indagini sono naturalmente in corso, non è presto per fare collegamenti, per capire questo veleno fino a che punto diciamo fosse ramificato attorno alla figura di questo attentatore, se come è successo in altri casi si può parlare di un attentatore solitario o quant'altro, però insomma questo rischio assuefazione di cui parlavi tu mi sembra importante per la Germania, ma mi sembra come dire che stiamo vivendo un po' tutti. Adesso basta dare un'occhiata per esempio ai siti di informazione principali in Italia, la notizia sui principali siti sta già scendendo dalla prima posizione, e questa è una valutazione che potrà sembrare superficiale, ma insomma non, io penso che invece si possa fare una valutazione di questo genere. Ci sono siti di informazione dove la notizia è già al secondo, al terzo, al quarto posto. Io dico solo questo: se fosse stato un attentato per esempio di matrice islamica, credo che staremmo in diretta, in continuazione, a parlare di quello che è accaduto, perché ci sono anche state 9 vittime, 11 complessivamente. Certo, il quadro dei conflitti medio orientali e che si legano all'estremismo islamico è molto più complesso, è molto più ampio naturalmente, però siamo proprio sicuri che è qui il punto che stavi trattando tu, toccando tu, no? Che sembra quasi che, siccome la minaccia è una minaccia interna, viene dall'interno, viene da persone che sono in questo caso tedesche, che in qualche modo possono essere anche derubricati a folli, a gesti isolati, sembra che tutto questo faccia scendere, calare un po' l'attenzione. E invece ecco, io penso che invece hai ragione, invece Angela Merkel ha fatto proprio questo, cioè è intervenuta dopo molte ore, ecco, di cronaca, per fare una dichiarazione politica e rilanciare il tema su un livello molto più alto. Cioè, lei ha detto: attenzione, questo è un veleno che è nella nostra società e lo dobbiamo tutti contrastare. Se noi pensiamo che ancora non sappiamo l'identità delle vittime, però sembra che siano prevalentemente turchi, sì, perché erano appunto fuori questi due shisha bar. I shisha bar, i narghilè bar, sono ovunque in Germania, cioè io ne ho due sotto casa. Vicino casa. Beh, certo, la comunità turca è molto, sì, molto importante, no, in Germania. Sì, si parla 3 milioni, ma cosa è successo ad Hanau? Che dove c'è un'altissima densità di immigrati, e quella più grande sono i turchi, sì, poi ci sono gli jugoslavi, però poi è arrivata di recente una seconda ondata, che è quella poi insomma del milione dei rifugiati di Angela Merkel del 2015-16, e sono siriani, afghani o etiopici. Il tedesco era abituato alla comunità turca, che si è integrata fino a un certo punto, perché comunque hanno i loro shisha bar, però, dove vanno anche un po' i tedeschi, però sono soprattutto turchi. Ci sono i kebab pizza, dove comunque vanno i turchi, e vestono in maniera un pochino diversa, hanno le loro automobili nere che sfrecciano per la città. Insomma, c'è una comunità turca molto forte, che però forse simboleggia qui in Germania l'arrivo dell'immigrazione. Ricordiamolo, certo, che questo Topias, così hanno detto che si chiama appunto l'attentatore che ha fatto questo. Tra l'altro parlava anche di un complotto, quindi sarà stato squilibrato, ma questo complotto per cui secondo lui c'è una forza occulta che voleva sostituire la popolazione tedesca con tutti questi immigrati, che, ecco, lui ha visto che sono arrivati in varie ondate nella sua piccola cittadina, che è un microcosmo, un simbolo di quello che un po' accade anche in Germania. E allora ecco che la Merkel dice: attenzione, chiaro, perché noi abbiamo questo veleno che serpeggia nella nostra società. E proprio a questo riguardo, visto che tu parlavi del fatto che ci sono stati gli attentati di natura islamica e, sì, terrorismo, certo, islamico, e comunque la Germania sta correndo ai ripari, perché il Ministero degli Interni ha annunciato che assumerà, non l'ha annunciato oggi, ma insomma in questo periodo, 600, farà una task force di 600 poliziotti che dovranno solo occuparsi dell'estrema destra, del razzismo, di movimenti xenofobi, e guarderà quindi soltanto a questo. E quindi noi saremo naturalmente qua a raccontarlo anche con te, perché c'è ancora molto da raccontare, da spiegare, come dicevi tu, Isabella Bufacchi. Io intanto ti ringrazio, gli elementi ci sono tutti: il complottismo, la xenofobia, i video su internet, le analisi del ministro dell'interno tedesco che dice che ci sono 24.000 persone pronte alla violenza, 12.000 già armate. È un attentato che ha fatto 9 vittime, quindi un attentato molto importante, forse senza precedenti nella storia recente della Germania, quindi sicuramente ci sarà ancora molto da raccontare su tutto questo. Grazie alla corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Adesso cambiamo velocemente argomento, perché lo spazio dedicato naturalmente alla Germania è stato importante. Con noi Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Maurizio, ti facciamo fare gli straordinari in questo periodo, perché sei continuamente sollecitato su diverse notizie. Allora, l'ultima notizia è questa: ci sono stati nuovi controlli del MIT in Liguria, che erano controlli annunciati sulla rete autostradale, e c'è un nuovo guaio. Quale? Sì, è un guaio previsto in realtà, sì, ma che emerge soltanto adesso, almeno ufficialmente. Cioè, allora, se avete presente le immagini dall'alto del ponte Morandi, del crollo eccetera eccetera, si vedeva sul lato verso Genova una specie di viadotto elicoidale, cioè che girava su se stesso per salire verso l'autostrada. Quei classici bretelline che si fanno uscendo dall'autostrada per andare poi all'interno, in questo caso sul ponte. Completamente sospeso per aria, cioè è un viadotto, non è una vera e propria rampa di svincolo, è una rampa di svincolo però non sul terra pieno, ma proprio che regge su questi pilastri costruiti assolutamente insieme col ponte Morandi. Sono coevi, per usare l'espressione. Esatto, coevi, hanno ricevuto la stessa manutenzione che ormai possiamo dire con ragionevole certezza è stata quantomeno distratta, e quindi si trovavano in condizioni analoghe a quelle del ponte Morandi. C'era stato anche un indizio, perché uno di quei viadotti, proprio quel viadotto subito dopo, era entrato nella indagine sui report edulcorati, questo si sa da gennaio 2019. Ieri, come ci si aspettava, il super ispettore Placido Migliorino del Ministero ha riscontrato che è gravemente ammalorato anche questo viadotto, questa rampa di svincolo. Solo che cosa succede? Succede che il ponte Morandi, il nuovo ponte Morandi, che adesso si chiama per Genova, poi vedremo come si chiamerà definitivamente, sta venendo su proprio l'altro ieri. Sta andando abbastanza rapidamente, proprio, nei tempi previsti. Sì, proprio l'altro ieri abbiamo celebrato l'apertura, cioè la venuta su dell'ultimo pilone. E però adesso rischiamo di dover fare, anzi sicuramente verranno fatti dei lavori su questa rampa elicoidale. Autostrade si è impegnata a finirli, però ci sono dei dubbi, seri dubbi, perché fondamentalmente non sappiamo quando verrà pronto veramente il nuovo ponte, quindi rischiamo che questo ponte venga aperto, inaugurato, ma non si potrà accedere da questo ponte all'autostrada 7 che porta a Milano oppure verso il Levante genovese. Cioè, mi viene da dire, se ce ne potevamo accorgere prima fra tutti, perché almeno potevamo non perdere tempo, anche se Autostrade, va detto, ha annunciato che c'erano già dei lavori in corso su questo elicoidale e che loro rispetteranno i tempi previsti per l'apertura del ponte. Però vedremo, anche perché, ripeto, dipenderà da quando veramente verrà pronto il ponte principale. Maurizio Caprino, in flash, anche se è molto complicato, ieri è stato approvato il mille proroghe, con questa previsione per quanto riguarda le concessioni autostradali, che in caso di revoca scatta il piano B, cioè subentra l'ANAS, e questo è la rete con cui il governo si è predisposto a questa possibile, che però resta possibile, revoca. Qual è lo scenario secondo te? È un'arma sul tavolo, di fatto uno dei motivi per cui Autostrade non è intervenuta sulla rampa elicoidale, anche l'incertezza che c'è su questa partita. Tutto è assolutamente aperto, adesso c'è quest'ulteriore arma di cui è armato appunto la sede del governo, però c'è il problema anche che l'ANAS non ha tutte le capacità, quindi bisognerebbe vedere come assorbirebbe l'attuale personale di Autostrada. Non è come la cavalleria americana che arriva in soccorso, purtroppo no, nei film, non è proprio questo. La mano pubblica in Italia non se lo può permettere. Va bene, grazie Maurizio Caprino per essere stato con noi, abbiamo fatto il punto anche su questa vicenda. C'è una piccola notizia che riguarda la manutenzione dell'edilizia italiana, perché a Scampia, come sapete, era prevista la demolizione delle vele, della prima delle quattro vele. Ebbene, oggi è iniziata effettivamente stamattina la demolizione della prima delle quattro vele a Scampia, in un'area che prevede l'abbattimento delle vele A, C e D e la rigenerazione invece della vela B. Dunque anche in questo caso si stanno facendo passi in avanti nella manutenzione per quanto riguarda questa storia napoletana del patrimonio edilizio, che in questo caso diventa ex nella città campana. 13:29 minuti, facciamo un break, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Queste le notizie principali di oggi. Il razzismo è il veleno della società, così Angela Merkel sull'attentato xenofobo di Hanau in Germania, 9 vittime nei bar turchi. La maggioranza supera il voto di fiducia sul decreto intercettazioni. Renzi, però assente dal voto, annuncia presto un chiarimento tra me e Conte. Coronavirus, continua la diminuzione dei contagi in Cina. Sondaggio esclusivo per Radio 24. Gli italiani sono tra i più ignoranti e preoccupati d'Europa. Secondo YouGov, quasi il 50% non conosce il coronavirus, ma uno su tre pensa sia una grave minaccia per l'Italia. Tra poco. Persi in Italia 70.000 negozi negli ultimi 10 anni. Secondo Confcommercio, si salvano solamente bar, alberghi e ristoranti. 13:36 minuti. Di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Questi titoli di oggi, tra poco sentiremo questo sondaggio esclusivo per Radio 24 di YouGov sul cosa pensano le persone del coronavirus, non solo in Italia ma nel mondo, e quindi un sondaggio importante perché tiene legate insieme tante impressioni in tutti i paesi del mondo, compresa la Cina. I vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, molti sulla questione dell'attentato in Germania. E io ho detto attenzione al rischio di sottovalutare, di assuefarsi sui siti di informazione. Già in Italia siamo scesi alla terza o quarta notizia, un attentato che ha fatto 9 vittime, più l'attentatore e la madre dell'attentatore, 11 nel complesso. Scrivete così: perché l'Islam è strutturalmente pericoloso, questi invece sono solitari attentatori. Perché io ho detto, se fosse trattato di un attentato di matrice islamica, avremmo fatto dirette fiume, anche qua forse in questa radio, e ne avremmo parlato, l'opinione pubblica sarebbe stata ultra allertata. Invece mi sembra che a meno di 24 ore stiamo già calando l'attenzione. Scrive un altro ascoltatore: sembra più un gesto da folle che un attentato, ovvio che venga ridimensionato l'episodio. E questo è il vostro punto di vista, lo rispetto. Possibile che si tratti di un atto isolato, questo è possibile, anche se c'è il messaggio in rete, c'è il ministro dell'interno che dice che ci sono 12.000 persone in Germania pronte, armate ad intervenire. Ci sono già tanti fatti nel recente passato della Germania con centinaia di vittime che vengono dall'estrema destra. Secondo me c'è anche una inconscia sottovalutazione, perché siccome è una minaccia interna che ci sembra di conoscere, sono profili noti, sono persone, sono tedeschi, sono persone come noi, penseranno alcuni forse, e quindi sembra una cosa che fa meno paura. Ma davvero dobbiamo preoccuparci di meno di una cosa come questa, che ha fatto 10 vittime ieri sera in Germania, solo perché è una minaccia interna? Non è meno pericolosa, io credo, ma i dati sono lì per tutti. 13:38 minuti, è il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore, che è dedicato all'apertura della sessione del Consiglio europeo sull'importante voto del bilancio. Il punto di Alberto Orioli. Da una parte c'è l'Europa che guarda allo spazio comune della gestione dei big data, con un piano da quasi 20 miliardi l'anno entro il 2030 per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, del futuro insomma. C'è poi l'Europa che guarda uno standard di salario minimo comune per evitare fughe in avanti o il far west delle buste paga nel continente. C'è anche l'Europa che punta tutto sul Green New Deal, sugli investimenti nello sviluppo sostenibile e amico dell'ambiente, e per questo ne aumenta gli stanziamenti. Sono i segnali che Ursula von der Leyen vuole dare al mondo per indicare quale sia la nuova rotta che vuole imboccare il vecchio continente, che peraltro vuole diventare davvero una nuova Europa sociale ed inclusiva. Poi, dall'altra parte, c'è l'Europa della dura legge del budget, dove i sogni lasciano lo spazio alla ragioneria. Ne discutono oggi 27 capi di Stato e di Governo a Bruxelles. La trattativa è sulla bozza del Presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, che porta all'1,074% l'entità del bilancio UE, vale a dire a 1.093 miliardi. Per paesi come l'Italia, che è già contributore netto, si tratta di un taglio di risorse importanti per l'agricoltura, per i fondi di coesione e la ricerca e per la gestione dei migranti. Per questo Conte ha già detto no, e non è l'unico. E ora, come annunciato, un sondaggio in esclusiva per Radio 24 di YouGov sulla percezione della paura e della conoscenza anche del coronavirus. È con noi Francesca Soldi, ciao, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Di YouGov, che vi ricordo è una società di analisi di mercato e sondaggi internazionali. Allora, partiamo dalla prima questione: quanto è conosciuta, ormai credo molto, in tutto il mondo la vicenda del coronavirus? Allora, la vicenda del coronavirus è molto in generale in tutto il mondo, ma in particolare ci siamo accorti che in qualche modo è determinata dalla vicinanza al primo focolaio. Quindi abbiamo visto che ci sono tutta una serie di paesi del Medio Oriente e del Primo Oriente che presentano la conoscenza più alta. E infatti troviamo fra i primi posti, ad esempio, le Filippine, in cui il 68% dichiara di essere molto a conoscenza della malattia e il 26% di conoscerla. Poi il Kuwait è in terza. C'è un problema forse con la linea, con Francesca Soldi di YouGov. E insomma, la prima risposta adesso ce l'abbiamo ancora, eccola Francesca. Sì, benissimo. La prima risposta che ci stavi dando, siamo passati alla telefonica intanto, al collegamento telefonico, è che chiaramente la conoscenza è più tanto più alta quanto più si avvicina al focolaio, ecco, insomma, dell'epidemia. Esatto. Esatto, infatti abbiamo tutti i paesi del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente che presentano la conoscenza del virus più alta. E qua, diciamo, possiamo dire che era una cosa attesa, ce lo potevamo aspettare, insomma, che fosse così, forse, no? Non è un dato strano. Esatto, e lo stesso si può dire anche per la paura, cioè sul fatto di percepire il coronavirus come una minaccia per il proprio paese o per il mondo in generale. E qua ad esempio troviamo al primo posto la Cina, sì, dove poco meno dell'80% di coloro che reputano il coronavirus come una grave minaccia per il proprio paese, e poi paesi come l'Indonesia e la Thailandia. C'è un'eccezione che è costituita dall'Australia, sì, che seppur appartenendo all'area, diciamo così, vicina al primo focolaio, si avvicina invece più al sentire degli Stati Uniti e dell'Europa, con meno del 40% degli intervistati che reputa il virus come una minaccia grave per il proprio paese. Venendo all'Italia, Francesca Soldi, e all'Europa e all'Italia, allontanandoci un pochino quindi dal focolaio dell'epidemia di coronavirus, sembra però che ci sia una specie di discrepanza tra conoscenza e paura. Cioè, se la conoscenza e la paura vanno di pari passo, tutto sommato è abbastanza, come dire, comprensibile. Uno più conosce una malattia che è pericolosa, più ne ha paura. In Italia invece forse c'è un dato che diverge da questo punto di vista? Allora, innanzitutto l'Italia è quella che mostra fra i livelli più bassi di conoscenza della malattia. Quindi scarsa conoscenza, più scarsa, sì, rispetto agli altri paesi europei. Esattamente, ma allo stesso tempo è il primo paese fra l'Europa e gli Stati Uniti per quanto riguarda il percepito di minaccia, dove troviamo il 44% delle persone che ritengono il coronavirus una grave minaccia per il resto del mondo e il 28% per il proprio paese. Ecco, ci sarebbe a domandarsi perché questo accade, non so se questo non rientra nel vostro sondaggio naturalmente, perché le cause di queste risposte non credo, no Francesca? Sì, allora c'è da dire una cosa, che quando sono stati rilevati i dati sull'Italia erano fra il 4 e il 5 febbraio e sono uscite tutta una serie di notizie che riguardavano il rimpatrio degli italiani da Wuhan piuttosto che quindi la conferma dei... Quindi quello può avere influito in qualche modo sulla percezione, questo è possibile. Comunque una sottolineatura, un aspetto da tenere in considerazione, una conoscenza per quanto riguarda il nostro paese non così elevata come in altri paesi di che cosa è veramente il coronavirus, ma una paura che invece è molto elevata. Sarebbe il caso invece che le due cose si allineassero. Tanto vale, visto che siamo spaventati, almeno cercare di capire che cosa è il coronavirus. Un sondaggio che è nato 2 settimane fa, oggi però le notizie di cronaca, l'abbiamo già ricordato fortunatamente, sono che per alcuni giorni consecutivi diminuisce il numero di nuovi contagi in Cina, e questa è una buona notizia. 13:44, velocemente il momento che ci avvicina alla pagina sportiva su Radio 24, al pomeriggio sportivo, che poi è un'anticipazione delle partite, credo, anche di questa sera. Carlo Genta in collegamento da Verona. Ciao, ciao Carlo. Alessio, ciao, sono al tuo posto di ieri. Tra Atalanta e Verona non c'è esattamente buon sangue, c'è grande rivalità sportiva. Però siamo qui a Verona, parleremo della grande Atalanta di ieri sera, inarrestabile anche in Europa, ma ci collegheremo anche con il capitano del Verona dello Scudetto 85, Roberto Tricella. Quindi uniremo queste due cose, shakeriamo e cuciniamo con le stufe che sono a disposizione, ampia disposizione. Che hai visto ieri. Certo, naturalmente. Sentiamo dopo. Grazie Carlo, grazie. Appuntamento con te, tutti convocati. Dopo il GR delle 14, poi l'attesa anche naturalmente per le partite dell'Inter e della Roma di Europa League. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo con Giulia Crivelli e i giornali internazionali.